Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nessuno è contrario a uno stadio. Se c'è una leggera discussione, c'è una discussione sulla collocazione di uno stadio che è in una zona a rischio idrogeologico, con la sovrintendenza che ha posto qualche limite, si discute se dove farlo, magari in una zona meno a rischio idrogeologico. Questo è quando, ma poi deciderà la giunta e il sindaco. Nessuno dice di no. Noi diciamo di sì, ma da qualche parte che non sia quello, perché se c'è una zona che non esonda, magari è meglio. È il caso di dire, senza rifarsi a notizie di qualche giorno fa, che è davvero una patata bollente questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quella dello stadio della Roma a Roma. Avete sentito Beppe Grillo oggi, era in Campidoglio, ha fatto questa riunione, insomma, parlato di vari argomenti, tra cui anche questa vicenda dello stadio. Si fa, non si fa? In realtà aveva detto oggi la risposta ci sarà tra due giorni, e poi è arrivata quest'ultima dichiarazione poco fa al TG2, in cui ha detto ma in realtà non è, diciamo, in discussione lo stadio, ma forse la sua collocazione. Ma i proponenti del progetto hanno detto no, non è possibile un'altra collocazione. Ne parleremo questa sera qui Effetto Notte, così come ci occuperemo di questa polemica che ha investito la Regione Lazio e l'ospedale San Camillo di Roma per l'assunzione di due medici non obiettori. Zingaretti, presidente della Regione, dice: come altro facevo, visto che 8 su 10 nel Lazio sono obiettori di coscienza e non intervengono e non operano per l'interruzione volontaria di gravidanza. E ci occuperemo di questo tema delicato. Parleremo anche dei pianeti gemelli della Terra che sono stati scoperti, sui quali forse qualcuno potrebbe, volendo, trasferirsi. Poi c'è la partita di Champions della Juve, insomma tantissime notizie, non perdete un solo minuto di Effetto Notte. Vi ricordo che per i vostri commenti e le vostre osservazioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Molti argomenti da approfondire, ma prima, come sempre, un riassunto della giornata. Annuncio della NASA, scoperti 7 nuovi pianeti simili alla Terra in fascia abitabile a 39 anni luce. Aborto, la Regione Lazio assume al San Camillo due ginecologi non obiettori, insorgono la CEI e la ministra Lorenzin. Italia e conti pubblici, monito dell'Unione Europea, serve una manovra correttiva entro aprile oppure subentrerà il rischio di una procedura di infrazione. Boom dell'inflazione a gennaio. Roma, Movimento 5 Stelle è spaccato sullo stadio, Grillo dice sullo stadio della Roma, nessuno dice di no, si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio. Processo Carige, condanna 8 anni per l'ex presidente Berneschi, sequestrati 26 milioni. All'Italia saltano le trattative, confermato lo sciopero di domani dalle 14 alle 18. Taxi, dopo l'incontro ieri di ieri del ministro Delrio, afferma riforma seria senza cedere alla piazza, è un diritto usare le innovazioni, e poi via libera dalla maggioranza delle sigle al piano. E per il calcio, la Champions questa sera con la Juventus alla prova del Porto. Partiamo quindi dall'annuncio della NASA. In una conferenza stampa molto attesa, la NASA ha detto che intorno a una piccola stella non troppo distante dal nostro sistema solare, cioè, diciamo piuttosto relativo, orbitano 7 pianeti che hanno la stessa grandezza della Terra e potrebbero ospitare la vita. La scoperta dà la possibilità agli scienziati di studiare la presenza di vita all'esterno del sistema solare. Su questo non posso che coinvolgere il professor Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Ci dia un po' la misura di questa novità, professore. Già si era parlato in passato di pianeti più o meno simili alla Terra, no? Certo, sì, ce ne sono già diversi, ma tanto per cominciare vorrei subito dire che la NASA fa tanto così la madrina di questa scoperta. In realtà la scoperta è fatta da una collaborazione di astrofisici di tutto il mondo, da Liegi a Marrakesh, per intenderci. La NASA è arrivata per ultima, ma naturalmente si prende il merito, insomma. Sì, vabbè. Allora, no, la scoperta è molto bella, una stellina ultra cool, molto fredda, vicino a noi, a una quarantina di anni luce da noi, ha intorno 7 pianeti che girano belli ordinati, tutti precisi, come i nostri 8 del nostro sistema solare. E di questi, 3 sono a una distanza tale dalla loro stellina che effettivamente hanno sulla superficie una temperatura, per esempio compresa tra 0 e 100 gradi, che permette all'acqua di essere liquida. che è la prima condizione per lo sviluppo della vita, almeno come la conosciamo noi. Perciò si chiamano pianeti abitabili, ma bisogna subito aggiungere che abitabile non vuol dire abitato, È chiaro. Quindi valigie non si fanno, parece sia un po' prematuro, ma non è detto neanche che ci sia qualche forma di vita, professore, studierete però questa cosa. Non è detto che ci sia ET, anzi è molto improbabile che ci sia ET o omini verdi, eccetera. Potrebbero esserci delle muffe, dei batteri, degli oggetti monocellulari. Lo scopriremo con la prossima generazione di telescopi che saranno in grado di investigare le atmosfere di questi pianeti, se ce le hanno le atmosfere, perché non lo sappiamo ancora. Grazie professor Giovanni Bignami, grazie molte, grazie. Buon lavoro. E adesso le polemiche sull'iniziativa, vi dicevo, al San Camillo di Roma, dopo polemiche del mondo cattolico e della CEI sul concorso dell'ospedale San Camillo per l'assunzione di medici non obiettori di coscienza per l'aborto, interviene la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che boccia la procedura dell'ospedale romano alle prese con carenze di medici disposti a praticare l'interruzione di gravidanza. Due dirigenti medici saranno assunti all'ospedale San Camillo di Roma per garantire il rispetto della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. È stato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a volerli, tramite concorso ora concluso, per fronteggiare l'assenza di ginecologi non obiettori di coscienza in uno dei maggiori ospedali di Roma, garantendo così alle donne, ha spiegato il governatore, un diritto sancito dalla legge. Il bando è stato studiato, sostiene la direzione sanitaria del San Camillo, per evitare che i vincitori, una volta assunti, possano diventare a loro volta obiettori di coscienza. Un modus operandi senza precedenti per la Regione Lazio, intrapreso dal presidente Zingaretti nonostante le resistenze politiche del mondo sanitario e nonostante i ricorsi al TAR. Ora però, contro la decisione, si scaglia il mondo cattolico. Snatura la legge 194, che non aveva l'obiettivo di indurre l'aborto ma di prevenirlo, tuona la CEI. Una grave discriminazione assolutamente inaccettabile, fanno eco i medici cattolici. Non favorevole lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Su questo non bisogna esprimere pensieri, ma semplicemente rispettare la legge, in cui l'obiezione di coscienza è rispettata nel nostro paese. E tra l'altro, quando fai le assunzioni e i concorsi, non mi risulta che ci siano dei parametri che vengano richiesti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi torneremo, vi dicevo, su questo tema così importante e delicato. Adesso siamo alla politica. Roma, Beppe Grillo, intervistato dal TG2, l'avete sentito all'inizio, dopo aver incontrato i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Campidoglio a proposito dello stadio, ha detto: sullo stadio della Roma nessuno dice no, c'è una discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrologico, si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio, ma i proponenti replicano che è impossibile trovare un sito alternativo, che lì dove è stato scelto sono state rispettate le regole. Anche di questo torneremo a parlare nel corso di Effetto Notte. E poi è passato all'Aula del Senato il decreto legge per il Sud. Non c'è stato bisogno del voto di fiducia, quindi è passato, è diventato legge il decreto legge per il Mezzogiorno, con 122 sì, 44 no, 50 astenuti. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, adesso diventa definitivo. E parliamo del viaggio di Stato in Cina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La relazione tra Cina e Italia è una relazione che va crescendo, che ha molti spazi di accrescimento che vorremmo coltivare integralmente. Vi è una volontà di sottolineare e far crescere l'amicizia e la collaborazione fra i nostri due paesi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Cina per una visita di 5 giorni, invita così ad ampliare il partenariato tra Roma e Pechino. Rapporti rinsaldati dalla firma di 13 accordi bilaterali che spaziano dalle dogane ai rapporti culturali e da un pacchetto di accordi economici per almeno 5 miliardi di euro. L'intesa più corposa è quella siglata da Fincantieri, China State Shipbuilding Corporation e Carnival per la costruzione di 2 navi da crociera per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari e per ulteriori 4 navi in opzione, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato cinese. Il Business Forum Italia-Cina di Pechino ha suggellato anche un accordo tra il gruppo Cassa Depositi e Prestiti, la sua controllata Ansaldo Energia e Shanghai Electric Corporation per il rafforzamento del partenariato strategico tra le due società. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di amianto, perché che sia per ostruzionismo o lentezza ingiustificata, la legge sull'amianto rischia di finire in un buco nell'acqua. È la denuncia che arriva da un convegno sul testo unico in materia di amianto tenutosi oggi in Senato e organizzato dall'Associazione Italiana Esposti all'Amianto. A 25 anni dalla legge 257, con cui nel 1992 è stata bandita la fibra killer, infatti in Italia ancora manca una legge che riordini tutta la normativa in materia, oggi costituita da innumerevoli norme, decreti, regolamenti regionali, comunali, nazionali. L'amianto uccide in Italia circa 3.000 persone ogni anno. A fronte di questo, però, ad oggi, sottolinea Salvatore Nania, presidente del Coordinamento Nazionale Amianto, un cittadino deve spendere 3.000 euro di tasca propria per smaltire la lastra di Ethernet. Non ci si può stupire se alcuni lo vanno a buttare di nascosto per strada, dice. L'Italia e conti pubblici, avvertimento della Commissione europea all'Italia, il governo corregga i conti pubblici dello 0,2% del PIL entro aprile oppure subentrerà il rischio di una procedura di infrazione. La nota dell'Unione europea sottolinea gli squilibri eccessivi che pesano sull'Italia, il debito, la bassa produttività, la disoccupazione. Roma deve fare di più sulle banche, dice il commissario Dombrovskis. E di questo poi parleremo più tardi, così come anche dell'inflazione, sia un vero boom a gennaio, salita dell'1%. Ne parleremo poi. E poi all'Italia ha confermato lo sciopero della compagnia di domani dalle 14 alle 18, cancellati almeno il 60% dei voli. Rispetto allo sciopero non si tratta più. Smentisce che oggi vi siano state trattative il segretario nazionale della FILT CGIL Nino Cortorillo in merito alla convocazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale da parte di Assaereo, spiegando che la discussione sul contratto va fatta senza ultimatum e senza ricatti. Cortorillo spiega ora da che cosa devono ripartire le trattative. Ovviamente il confronto può riprendere solo sulla base del fatto che Alitalia non ponga l'ultimatum che entro il 28 febbraio o si fa un accordo sul contratto nazionale, cosa impossibile ovviamente visto i pochi giorni a disposizione, o lei si sentirebbe abilitata ad agire in modo appunto unilaterale. L'altro tema attiene agli ammortizzatori sociali di questo settore, regolati da legge. La non funzionalità di INPS, se non direttamente l'ostacolo di INPS, ha posto centinaia, se non qualche migliaio di lavoratori in assenza di qualunque ammortizzatore sociale. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E dall'Alitalia ai taxi, la maggioranza delle sigle sindacali dei tassisti ha approvato l'accordo raggiunto ieri al Ministero dei Trasporti sulle nuove norme, ancora da scrivere, di riordino del settore entro un mese. Tante auto bianche, pochi bus, così la capitale all'indomani dell'intesa siglata tra le rappresentanze sindacali dei tassisti e il governo. Un accordo che ha placato la protesta dopo una settimana di blocco del servizio. Le corse sono riprese, ma i cittadini romani hanno dovuto fare i conti con uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico indetto dalla sigla Faisa Confail. Stazioni chiuse, autobus in ritardo, passeggeri schiacciati come sardine. Oggi ci sono un po' di disagi, pazienza. Eravamo informati comunque, va. C'è una cosa allucinante, no? Che la gente che ti spinge proprio incredibile. Disagi comunque limitati, complice anche la riapertura dei varchi ZTL e la ripresa, come si diceva, del servizio taxi. Intanto la maggioranza delle sigle sindacali ha ratificato l'accordo raggiunto ieri che dovrebbe riscrivere le regole e rimettere ordine nel settore. Una riforma seria, senza cedere alla piazza, l'ha definita il ministro Graziano Del Rio, replicando così al Codacons, che ha deciso di impugnare l'intesa con una denuncia all'autorità anticorruzione, perché non basata, secondo l'associazione, sulla libera volontà delle parti, ma condizionata dalle violenze messe in atto dai tassisti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso un'iniziativa molto interessante per prevenire femminicidi a Treviso. Gli uomini al centro di segnalazioni o denunce per liti in famiglia e atteggiamenti violenti con mogli o compagne non possono avere una pistola o un fucile. La questura di Treviso, nell'ambito di consueti controlli sulla sussistenza dei requisiti per il porto d'armi, soprattutto per uso sportivo o per la caccia, ha disarmato quasi 70 cittadini nel 2016. Dei 39 casi nei quali è stata revocata la licenza, 34 sono quelli di uomini protagonisti di violente liti in famiglia con mogli o fidanzate. E bella iniziativa, insomma, sembra il minimo sindacale, potrebbe essere estesa a tutta Italia, perché no? Se uno si è mostrato violento in famiglia o anche fuori, perché dovrebbe mantenere il porto d'armi? Ma al tempo, il dramma nel Teramano, 33 abitazioni evacuate, 98 persone senza più un tetto, un fronte di frana che ha tagliato a metà una collina, sta scivolando a valle alla velocità di un metro al giorno, sono i numeri del dramma della frazione di Ponzano di Civitella del Tronto nel Teramano, proprio perché purtroppo continua a piovere sul bagnato e così nelle Marche anche questa tragedia. Adesso però solleviamoci un po' gli animi, forse, non lo so, con Dario Ricci e questa Champions con la Juventus in campo. Dario? Eh sì, beh, sicuramente argomento meno drammatico, però partita che finora ha offerto non i gol, perché siamo al 32esimo di gioco a Porto allo stadio do Dragao, risultato ancora sullo 0-0, ma sicuramente alcune emozioni e qualcosa di importante da raccontare, perché La Juventus è in vantaggio di un uomo, perché al 27esimo è stato espulso per doppia ammonizione il terzino sinistro del Porto Alex Telles, ex dell'Inter tra l'altro, che nel giro di un minuto ha commesso due falli d'ammonizione, appunto, prima su Cuadrado e poi su Glicksteiner, inflessibile l'arbitro Brick che lo ha appunto espulso. Quindi Juventus in vantaggio di un uomo, Juventus vicino al gol al 22esimo con un destro di Dybala dal limite dell'area fuori di poco, stessa destinazione per il destro di Cuadrado appena sei minuti dopo. Quindi una Juventus che sta facendo la partita, cerca il gol, è in vantaggio di un uomo, ma risultato ancora sullo 0-0, mentre nell'altra sfida di serata, Roberta, il Siviglia è in vantaggio sull'Ester di Claudio Ranieri per 1-0, decide finora la rete di Sarabia al 25esimo, gli spagnoli hanno anche fallito un calcio di rigore, mi sa un'altra brutta serata per il nostro amato mister. Invece una bella serata per Dario Ricci, che mi sembra abbia portato i popcorn e birra, rimani qui in studio, quindi guardate. Io rimango qua, zitto, vabbè, se non disturbo. No, se non sei molesto, benissimo. E allora... vediamo se ce la faccio. Prima della viabilità, i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte sui vari argomenti, per esempio già su questa polemica sul San Camillo. Elena dice: le leggi vanno rispettate, altrimenti voglio la possibilità di obiettare. Vediamo, ho perso il segno adesso, scusate. Vediamo se riacchiappo il messaggio di Elena. È così, ogni tanto i social network si chiudono, si riaprono come dei ventagli. Dice: le leggi vanno rispettate, altrimenti voglio la possibilità di obiettare sul pagamento delle tasse. PS, la CE si occupasse dei problemi dello Stato del Vaticano. E poi Francesco: l'obiezione di coscienza non riguarda qualsiasi legge, ma è possibile solo quando entrano in gioco implicazioni etiche che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela. Diciamo, insomma, tutti e due messaggi con un fondo di verità. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Che sono talmente tante, io intanto qualche svista anch'io velocemente, mentre parlo giustamente un ascoltatore ricorda Teramo in Abruzzo e non nelle Marche. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Per esempio Luca scrive: i tassisti fanno orari impensabili, ma sono una categoria protetta, facciano il loro lavoro in clima di concorrenza e senza soprusi per i poveri cittadini, come spesso per me che spesso vado a Roma, dice. Poi invece Gianni da Bologna su Grillo e la questione dello stadio dice: Grillo è diventato democristiano. E poi altri messaggi che avremo tempo di leggere man mano. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali di oggi. L'Unione Europea che chiede una manovra correttiva entro aprile all'Italia. Padoan dice, ministro dell'economia, sì, nel nostro interesse. Il commissario Moscovici è ottimista, dice: Roma rispetterà i patti. E poi caos sullo stadio della Roma, il Movimento 5 Stelle verso lo stop al progetto. Grillo dice: facciamolo, ma in un altro posto, ci saranno novità entro 48 ore, dice. E poi Renzi che torna a parlare verso la sfida, la politica litiga, dice: ma penso al futuro, sapete che è negli Stati Uniti. E dice anche: Emiliano non mi ha richiamato. E poi: scoperto il sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, l'ha annunciato la NASA, ne abbiamo parlato poco fa col professor Bignami. E poi: medici non obiettori per attuare la 194, assunti all'ospedale San Camillo di Roma. Questo ha scatenato polemiche, la reazione della CEI, anche il ministro Lorenzin che dice la selezione non è prevista. Del Rio, il ministro Del Rio per i taxi: abbiamo in progetto questa riforma seria, senza però cedere alla piazza, perché dice ci deve essere anche la libera concorrenza. Intanto via libera dalla maggioranza delle sigle. L'inflazione che accelera a gennaio all'1%, ne parleremo tra poco. Per la Banca Carige, Berneschi, l'ex presidente della Banca Carige, è stato condannato a 8 anni e 2 mesi nel processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. E per il calcio, la Juventus contro il Porto in Portogallo, sempre 0-0. Stavo vedendo anche questo messaggio, questa ascoltatrice Laura dice sempre a proposito del San Camillo: lo Stato ha il dovere di applicare le leggi e quindi assume medici non obiettori. Se i medici possono obiettare sull'interruzione di gravidanza volontaria, allora come cittadina esigo di poter obiettare le tasse che pago per la loro retribuzione, ma non penso che potremo obiettare sui conti pubblici, né vero Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore? Sicuramente, buonasera a tutti, è quello che ci ha detto l'Europa. L'Europa proprio non ne vuole sapere di obiezioni varie, anzi ci ha detto che o ad aprile arriva questa manovra vera di 3,4 miliardi oppure a maggio, quindi di lì a poco, verrà aperta una procedura di infrazione per eccesso di debito. Senti, questo cosa comporterebbe per l'Italia? Ma è una procedura che alla fine è una multa, perché può arrivare fino allo 0,2% del PIL come sanzione che poi uno Stato membro deve pagare alle strutture, alle casse europee, e questo naturalmente, visto che non riusciamo a trovare i 3,4 miliardi, non sarebbe certo una buona notizia. Senti, il Presidente del Consiglio Gentiloni poco fa al TG1 ha detto sì, faremo questa correzione ma senza manovrine depressive. L'Italia ha risposto un mese fa, la faremo nel quadro del documento di economia e finanza. Certo, il problema è quello che in questa fase non si possono fare manovre che abbiano un impatto forte sulla fiscalità, per esempio, no? Che possano azzoppare questo briciolo di ripresa che è in corso. L'impianto che Padoan aveva predisposto prevedeva un po' di accise su tabacchi, benzina, e questo effettivamente non sarebbe una cosa così particolarmente penalizzante per il ciclo economico, però è molto penalizzante per il ciclo elettorale, e siccome in questa fase non si sa quello che succederà, il famoso rischio politico è forte, subito all'interno del partito di maggioranza si è creato il movimento a partire da Renzi che non vuole niente sul versante del fisco, in qualunque forma lo si voglia mettere in campo, e quindi bisognerà capire se la correzione sarà fatta tutta con i tagli, e anche fare tagli può voler dire incidere molto nel corpo dei soggetti economici, soprattutto quelli pubblici evidentemente, con impatti più o meno valutabili anche sulla ripresa, quindi è una strettoia un po' delicata, anche se a onor del vero l'entità di 3,4 miliardi in senso assoluto non è moltissimo, insomma siamo un paese che spende 800 miliardi solo di spesa pubblica viva, diciamo così, per cose che servono all'amministrazione, quindi non dovrebbe essere particolarmente difficile poi trovare una quadratura del cerchio. Comunque è giusto che ci chiedano questo, detto in sintesi? Ma francamente sì, le regole europee sono queste, c'è poco da fare. Poi è chiaro che è un po', diciamo, l'importante è non essere talebani poi nella declinazione delle fasi attuative rispetto alle richieste dell'Europa, ecco, da parte dell'Europa naturalmente. Quello che si è fatto per tanto tempo sul rigore, santificando i parametri e quant'altro, è stato sicuramente un errore, ma la fase adesso anche in Europa è un po' cambiata. Invece, per fare un accenno anche a questo boom dell'inflazione a gennaio, no Alberto Rioli, eravamo abituati ultimamente a sentire parlare sempre di deflazione, quindi la diminuzione dei prezzi, ma questo significava, era negativo perché significava anche produrre quindi meno, visto che si consuma meno e quindi minori posti di lavoro. In questo caso quindi è positiva o negativa questa inflazione? È a due facce, è sicuramente positiva perché significa che stiamo uscendo da questa paura del ciclo deflattivo, che è una cosa che ha un impatto sulla sfiducia, cioè vuol dire sfiducia da parte dei consumatori e quindi un blocco effettivamente dell'attività normale dell'economia. E è un dato forte, ma che presuppone un fattore stagionale molto evidente, che è dovuto all'inverno particolarmente rigido che ha fatto impennare i prezzi dell'ortofrutta sostanzialmente, che hanno un peso relativo forte sul cosiddetto carrello della spesa. Infatti l'inflazione del cosiddetto carrello della spesa è arrivata all'1,9%. Potrebbe però anche voler dire che c'è qualche risveglio appunto nei consumi come segnale di svolta dell'economia nel complesso, e questo lo si vede se si va a vedere per esempio la grande banca dati che fa il censimento di quello che viene passato automaticamente alle casse dei supermercati, e lì si vede che sono aumentati i prodotti di qualità e sono aumentati gli acquisti in volumi, e quindi vuol dire che effettivamente qualcosa si sta risvegliando nei consumi, nella domanda interna che era stata fonte di glaciazione per tanto tempo. L'altro versante è però che se anche l'Italia, che era il fanalino di coda di tutta l'Europa, comincia a spingere sull'inflazione europea, questo naturalmente avvicina la fine del famoso quantitative easing della Banca Centrale Europea, cioè l'azione di allentamento monetario che consente alla BCE di comprare a mani basse titoli di Stato e che per adesso tengono a bada lo spread. Se questo venisse meno improvvisamente, effettivamente l'Italia potrebbe tornare a rischio spread e quindi perdere quei vantaggi che ha avuto fino adesso, perché gli si aumenterebbero i tassi e quindi aumenterebbe l'onere del cosiddetto servizio del debito, cioè quanto lo Stato deve spendere per rimborsare i suoi bond, che aumentando i tassi costerebbero di più all'erario. Per chiudere proprio velocissimamente, probabilità da 1 a 10 che succeda? No, basse per ora, perché comunque la BCE ha detto chiaramente che il programma ancora, ancora esiste e probabilmente arriverà fino al prossimo anno. Beh, quindi non bisogna mettere in dubbio quello che ha detto Draghi, sicuramente. Ancora un po' di ossigeno. Grazie Alberto Rioli, del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ciao. Nessuno è contrario a uno stadio. Se c'è una leggera discussione, c'è una discussione sulla collocazione di uno stadio che è in una zona a rischio idrogeologico, con la sovrintendenza che ha posto qualche limite, si discute se dove farlo, magari in una zona meno a rischio idrogeologico. Questo è quanto, ma poi deciderà la giunta e il sindaco. Nessuno dice di no. Noi diciamo di sì, ma da qualche parte che non sia quello, perché se c'è una zona che non esonda, magari è meglio. Insomma, questo stadio della Roma si fa o non si fa? Grillo sembrava un po' più sicuro oggi in giornata, diceva, addirittura scherzava, ne facciamo due. Poi c'è stato questo lungo incontro in Campidoglio con i consiglieri, con il Movimento 5 Stelle, e questa è l'ultima dichiarazione che ha fatto poco prima delle 21 al TG2, dicendo che sì, non si mette in discussione, però sarebbe meglio collocarlo altrove. E diciamo che probabilmente questo argomento sta anche un po' dividendo, spaccando il Movimento 5 Stelle. Forse si va addirittura verso lo stop dell'opera, però dichiarazione di poco fa dei proponenti, di coloro che portano avanti il progetto, che dicono no, non è possibile collocarlo altrove, le regole sono rispettate, eccetera eccetera. Su questo coinvolgo la nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Cara Manuela. Ciao Roberta. Tra l'altro poco fa dichiarazione di Pallotta, presidente della Roma, James Pallotta, che tramite il profilo Twitter dice, in vista dell'incontro di venerdì sullo stadio di Roma con il Campidoglio: ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì, in caso contrario sarebbe una catastrofe per il futuro della Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia. Ebbene sì, è l'ennesima puntata di quella che ormai è diventata una telenovela. Ogni giorno non sappiamo se lo stadio si farà oppure no, ogni giorno arrivano contraddizioni da parte del Movimento 5 Stelle. Oggi, lunedì, Grillo aveva detto troveremo una soluzione, stasera è arrivato veramente quello che sembra un de profundis, perché addirittura dice si farà, non possiamo farlo a Tor di Valle. I proponenti, e quindi il club giallorosso e il costruttore Luca Parnasi, hanno chiarito che diciamo tornare indietro sul sito è un'ipotesi che non può essere in alcun modo presa in considerazione, perché significherebbe tornare a 5 anni fa e quindi ricominciare da capo tutto l'iter. Quindi a questo punto, ma probabilmente il Movimento 5 Stelle forse non lo voleva, ma siccome diceva che la Giunta Marino già aveva avviato il progetto e brava, quindi si andrebbe contro anche una possibile causa? La verità è che il Movimento 5 Stelle sta cercando sponde per procedere con l'annullamento in autotutela e sta cercando questo parere da parte dell'Avvocatura Capitolina per capire se la delibera Marino, quindi per risalire all'origine, se la delibera varata a fine dicembre nel 2014 è una delibera illegittima. Nel caso in cui anche dall'avvocatura arrivasse, come è già contenuto in un parere arrivato alla conferenza dei servizi, arrivasse la dichiarazione di illegittimità della delibera originaria, a quel punto si riuscirebbe nel capolavoro, cioè potrebbero continuare a dire volevamo dire sì allo stadio, ma siamo obbligati a dire di no. Quindi diceva Grillo, alla fine entro 48 ore ci saranno delle novità, vediamo se riescono ad arrivare a una conclusione più o meno definitiva. Mi sembra un po' complesso in così poco tempo, viste le questioni in gioco, no, Manuela? Beh, ma i tempi stringono, perché oggi doveva tenersi l'incontro con il club e con il costruttore Parnasi, che però il comune ha chiesto di rinviare a venerdì proprio perché non si trovava la quadra. E venerdì all'incontro qualcosa si dovrà dire, ma soprattutto incombe la data del 3 marzo, quando si dovrebbe chiudere con un parere la conferenza dei servizi. Tempi stretti. O l'accordo arriverà oppure il tavolo salta. Grazie Manuela Perrone. Ciao Manuela, prego, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. E ancora i vostri messaggi prima di darci appuntamento dopo la pausa a un altro tema, però vedo Dario Ricci che si agita. Dario? Ah, no, non è agitato, ma solo per aggiornarti che sta per finire davvero il primo tempo a Porto, mancano ormai 8 secondi dei 2 minuti di recupero, siamo sullo 0-0, ricordiamo Juventus in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Alex Telles per doppia ammonizione al 27esimo, Juventus che pochi istanti fa proprio al 45esimo ha colpito con Dybala un clamoroso palo, bello il sinistro dell'argentino dal limite del l'area a incocciare sul palo alla sinistra di Casillas. Juventus che ha avuto questa ma anche almeno altre 3 occasioni per passare in vantaggio, ma quindi occasioni perse. Sì, occasioni perse. Grazie Dario Ricci, e dopo rimane la nostra compagnia, naturalmente sta riempendo di popcorn un po' tutta la scrivania. Adesso questa pausa e i vostri messaggi ancora sul San Camillo di cui parleremo tra pochissimo. Marco da Bergamo, ricordate pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per le vostre osservazioni, i vostri commenti. Dice: i medici hanno il diritto di obiettare, tuttavia lo Stato deve garantire il diritto di aborto e se mancano medici disposti a praticarlo, la legge non trova applicazione pratica. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato di molte notizie, avete sentito all'inizio il riassunto della giornata, adesso andiamo scusate, su uno dei temi principali di oggi che sta facendo molto discutere. Questa iniziativa della Regione Lazio e dell'ospedale San Camillo di Roma, molti vostri messaggi, ne vedo sulla pagina Facebook di Effetto Notte che è al 349-238-6666, tra poco ne parleremo con 2 ospiti, però vi racconto anche brevemente, siccome non tutti accendono puntualmente, purtroppo alle 21, quali sono i fatti principali della giornata. Annuncio della NASA, scoperti 7 nuovi pianeti simili alla Terra in fascia abitabile a 39 anni luce. Abbiamo parlato col professor Bignami. E poi aborto, la Regione Lazio assume al San Camillo 2 ginecologi non obiettori, insorgono la CEI e la ministra Lorenzin. Italia, i conti pubblici, monito dell'Unione Europea, serve una manovra correttiva entro aprile oppure subentrerà il rischio di procedura di infrazione. Boom dell'inflazione a gennaio. Roma, Movimento 5 Stelle spaccato sullo stadio. Grillo dice è sullo stadio della Roma, nessuno dice di no, si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio. Processo Carige, condanna 8 anni per l'ex presidente Berneschi. E poi all'Italia saltano le trattative, confermato lo sciopero di domani dalle 14 alle 18. Parliamo allora di questa iniziativa dell'ospedale San Camillo di Roma per salvaguardare il diritto delle donne a vedere rispettata la legge applicata, la legge 194, ovvero la legge dell'interruzione volontaria di gravidanza. Cosa ha fatto il San Camillo? Ha indetto tempo fa un bando che ha portato nella sua conclusione all'assunzione a tempo indeterminato all'ospedale San Camillo appunto di 2 ginecologi non obiettori di coscienza. Fortemente voluto questo bando dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per assicurare l'applicazione della legge 194. Il bando tuttavia ha suscitato molte polemiche sin dal suo nascere ed era subito finito nel mirino dei movimenti Pro Vita e del Family Day. Subito oggi è intervenuta la CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiani, che ha commentato dicendo: non praticare l'aborto è un diritto, così si snatura la 194. Sulla questione è intervenuta anche la ministra della Salute Lorenzin, che ha detto: è evidente che abbiamo una legge che non prevede questo tipo di selezione, prevede invece la possibilità, qualora una struttura abbia problemi di fabbisogno per quanto riguarda singoli specifici servizi, di poter chiedere alla regione di attingere anche in mobilità da altro personale. Fra l'altro, questa iniziativa del San Camillo divide anche i medici italiani. L'Associazione dei Medici Cattolici contesta la decisione e denunciano come si attui in tal modo una grave discriminazione nei confronti degli obiettori, mentre per la Lega dei Medici Non Obiettori si tratta, questa di San Camillo, di una modalità giusta per garantire la reale applicazione della legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Va anche detto che, questo specificano i medici non obiettori, che in Italia 7 ginecologi su 10 sono obiettori, con dei picchi medici in alcune regioni, per esempio quasi il 90% in Molise. I medici in Molise sono obiettori, molto alta anche nel Lazio e in Campania. Ne voglio parlare con Daniela Fantini, che è ginecologa cofondatrice nel 1966 del CEMP, il primo consultorio privato laico aperto a Milano, collaboratrice da 15 anni del Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della Mangiagalli di Milano. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Daniela. E il professore, il dottor Franco Balzaretti, vicepresidente dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani. Buonasera, professore. Buonasera a lei e a tutti gli spettatori. Allora, dottoressa Fantini, che cosa dice a proposito di questa polemica dell'iniziativa del San Camillo? La ministra Lorenzin dice non è previsto dalla legge che si facciano dei bandi apposta per medici non obiettori. Allora, la legge ha molte caratteristiche, molti articoli, e ce ne sono molti che non sono seguiti, per esempio quello della prevenzione, che è poco seguito, e mi stupisco appunto che non cerchino di migliorare questa cosa. Però, detto ciò, l'interruzione di gravidanza è una legge che lo Stato italiano offre alle donne che si trovano in difficoltà, e in qualche modo bisogna applicarla questa legge. Se i medici obiettori sono molti, esempio in Lazio 10 ospedali su 30 fanno le interruzioni di gravidanza, gli altri non le fanno, è necessario trovare una soluzione. La soluzione, che è quella che la ministra Lorenzin dice, è vero che si possono spostare i medici con comandi o con altre situazioni da altri ospedali, tanto sono pochi, e poi un medico che fa un numero di modesto e finito il suo servizio se ne va, lascia scoperto per le urgenze, le complicanze, e lascia le donne in mano a medici che non sono d'accordo con le loro scelte. Questa è una cosa che bisogna trovare, deve essere risolta. Chiedo al dottor Balzaretti, lei che cosa ne pensa e come risolverebbe questa situazione, visto che appunto nel Lazio 8 su 10 sono obiettori, la media italiana 7 su 10, in Molise oltre il 90%, per citare solo una regione. Ma innanzitutto io vorrei premettere che non in tutti gli ospedali vengono erogate tutte le possibili prestazioni possibili ed immaginabili, così come uno si può rivolgere ad un altro ospedale per qualsiasi altra patologia, lo può fare anche per l'interruzione di gravidanza, che oltretutto non è una patologia. Premesso questo, io vorrei dire che pensare ad un bando di concorso limitato a dei non obiettori è un qualche cosa che va contro non solo la legge, ma anche contro il buon senso e la dignità del medico, perché il medico deve poter partecipare a qualsiasi concorso. Si parla tanto di pari opportunità, si parla tanto di garantire la libertà, la coscienza, la possibilità di coscienza, di religione tutte, ma qui in questo caso c'è una discriminazione veramente intollerabile, per cui io ritengo che questa decisione sia una decisione che non solo non risolve il problema, ma addirittura crea dei precedenti che vanno anche contro proprio la dignità del medico. Dottor Balzaretti, però è vero che è una situazione concreta, lei dice si può andare, non è una patologia ma una legge dello Stato, è un diritto, no? Anche delle donne, questo è il 194. Difatti un medico può liberamente scegliere di essere obiettore o di non essere obiettore. Certo, ma lei diceva si può andare da un ospedale all'altro, sa che non so se addirittura nelle Marche o dove ci sono medici che devono spostarsi da una città all'altra o viaggiare da una regione all'altra per assicurare questo servizio. Io credo che non ci siano mai stati dei problemi nel garantire qualsiasi prestazione, ivi compreso anche l'aborto, per cui credo che sia solo una cosa pretestuosa per creare dei precedenti, così come è avvenuto anche per altre problematiche, si creano dei precedenti per poter ad alterare quella che è, diciamo, una norma che non solo garantisce il medico ma garantisce anche il paziente. L'obiezione di coscienza garantisce che il medico possa agire secondo scienza e coscienza. Dottoressa, mi scusi Balzaretti, adesso un po' di spazio anche a dottoressa Fantini, quindi per tutelare anche il diritto delle donne, si tutela il diritto all'obiezione di coscienza, tutelare quello delle donne come si fa, che non si sentono di affrontare una gravidanza? Il diritto di obiezione di coscienza è un diritto e quindi è riconosciuto e non deve essere eliminato, anche perché non si può obbligare a delle persone che hanno un problema rispetto all'interruzione della gravidanza ad eseguirla, anche perché avrebbe un pessimo rapporto con le donne che decidono di interrompere la gravidanza. Detto ciò, bisogna trovare una soluzione. È possibile che facendo un concorso con due medici non obiettori, che hanno nella legge, nell'assunzione c'è scritto che non possono neanche cambiare idea, cioè non obiettori restano e restano così, non possono poi decidere di diventare obiettori dopo. Quindi detto ciò, una soluzione ci vuole. Quindi gli ospedali devono applicare la legge e fare in modo che ci siano dei medici. Allora possono fare dei turni e se i medici non se la sentono e quel turno devono farlo, cambiano l'ospedale, non lo so, però una soluzione bisogna assolutamente trovarla. Dottoressa Santini, perché... con i dati che davo prima, che poi sono del Ministero della Salute, questo è il numero degli obiettori, al di là che sia diminuita molto negli anni l'interruzione volontaria di gravidanza, però resta questo problema, no? In certe regioni, in Molise uno probabilmente deve fare il turismo dell'interruzione comunque, di gravidanza. Io che faccio la ginecologa, non l'obiettrice, a Milano. Faccio certificati a cugine, sorelle, parenti di donne che vengono dal sud Italia e anche dal Lazio, perché la gravidanza poi non si può neanche tenere le donne e fare l'interruzione a 11 settimane quando si presentano a 7, perché spero che anche il medico obiettore si renda conto che è comunque una cosa gravosa e interrompe la gravidanza a 7 settimane. Per una donna è diverso che essere portata a arrivare a 11 settimane, cioè 4 settimane. Chiaro. Le interruzioni si fanno, però ci sono anche dei tempi. L'RU, per esempio, l'aborto medico, viene utilizzato pochissimo. Perché? Perché cioè non la pillola, la pillola del giorno dopo, quella per l'aborto, non del giorno dopo, quella abortiva. Quella abortiva viene usata poco perché bisogna darne una pillola e poi dopo 3 giorni un'altra. Se dopo 3 giorni c'è il medico obiettore, non c'è quello non obiettore, si crea un bel problema. Non si fa. Chiarissimo, dottoressa Santini, dottor Balzaretti, proprio una conclusione che siamo alla fine. Ma io credo che la cosa, i due pilastri su cui dobbiamo fondarci è sul diritto dell'obiezione di coscienza e del non creare una discriminazione nei concorsi, perché un concorso pubblico, da quando ci sono i concorsi pubblici, devono essere aperti a tutti e non ci deve essere una discriminazione in base alla propria coscienza. Credo che questo sia intollerabile da parte di tutti, non solo da noi cattolici, ma proprio per la dignità del medico, dicevo precedentemente. Dopodiché siamo d'accordo che è una legge dello Stato deve essere rispettata in tutti gli aspetti, ivi compresa sulla possibilità dell'obiezione di coscienza. No, infatti sull'obiezione di coscienza lo abbiamo sottolineato, l'importante è anche che si salvaguardi questo diritto delle donne. Grazie dottor Balzaretti, grazie dottoressa Santini. Adesso c'è la pausa, sì, per la viabilità, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi continuano alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. C'è per esempio sempre sulla questione San Camillo di cui abbiamo appena parlato, Gianni da Savignano sul Rubicone sottolinea, dice: bravo Zingaretti, cioè il Presidente della Regione Lazio, tutelare i diritti delle donne è quello che prevede la 194 per la tutela dei medici obiettori, c'è già la CEI che ci pensa. Poi Riccardo dice: se garantiamo diritti di ogni tipo agli islamici per non violare la loro identità religiosa, non vedo perché dovremmo violare la libertà religiosa di un medico cattolico, per non parlare del fatto che oggi l'aborto è usato addirittura come contraccettivo. Riccardo, non mi sembra, sono molto diminuiti. E poi diceva la dottoressa, non viene fatta la prevenzione. Piero dice: tutte le strutture pubbliche dovrebbero garantire l'interruzione volontaria di gravidanza e non si dovrebbe arrivare ai reparti con tutti obiettori. Benvenga il bando per i non obiettori con previsione di licenziamento in caso di crisi di coscienza. Adesso però c'è tra pochissimo lo spazio europeo. Vi ricordo ancora una volta i fatti principali della giornata. L'Unione Europea che chiede una manovra di correzione all'Italia entro aprile sui conti pubblici. Padoan, ministro dell'economia, dice: è nel nostro interesse. Il commissario europeo Moscovici è sicuro, Roma rispetterà i patti. Caos sullo stadio della Roma, Movimento 5 Stelle verso lo stop al progetto. Grillo dice: facciamolo ma in un altro posto. E poi scoperto un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra. ne abbiamo parlato con il professor Bignami, e adesso dei medici non obiettori che per attuare la 194 sono stati assunti alla San Camillo con un bando apposta. Indignazione della CEI, la ministra Lorenzin, selezione non prevista, ma i medici non obiettori dicono che serve, necessaria per applicare la 194, visto che in Italia 7 su 10, questa è la media, sono i medici obiettori di coscienza. Adesso spazio europeo. Europa 24 notte. Un musical sull'Europa che parla della storia di un amore tormentato. No! Quale migliore canzone di Non je ne regrette rien per fornire il senso di una tappa storica come la dichiarazione Schuman del maggio del 1950 che ha posto le basi di una integrazione europea? Oppure il classico tedesco Lili Marlene per creare un'atmosfera che ci riporta indietro alla Seconda Guerra Mondiale? È proprio questa l'idea alla base di Europa che passione, storia di un amore tormentato, musical di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, interpretato da Davide Magna Bosco e da Paolo Barillari, che avete sentito poco fa nella reinterpretazione di uno dei tanti successi di Edith Piaf. Questo particolare recital racconta la storia dell'integrazione europea in 12 tappe musicali, figurative e videotestuali, che coinvolgono il pubblico mettendolo dalla parte dell'ideale di unità europea. Il progetto, iniziato nel 2008, fa parte delle giornate di consapevolezza europea, un format ideato dal CESUE, il Centro Studi Formazione, Comunicazione e progettazione sull'Unione Europea. A spiegarci di cosa si tratta è il professor Roberto Castaldi, direttore delle ricerche del CESUE. Le giornate consistono in un musical che racconta la storia dell'integrazione europea in 12 tappe, dalla Seconda Guerra Mondiale alla crisi di oggi, seguito da un dibattito introdotto da una breve conferenza stile TED Talk con il pubblico in sala. L'innovatività del format deriva dal coinvolgimento emotivo che il musical ha sul pubblico, descrivendo la storia dell'integrazione europea come la nostra storia, che noi abbiamo vissuto e di cui dobbiamo decidere tutti insieme il finale, con la seconda parte più scientifica di invece dibattito razionale con il pubblico, e dà normalmente vita a dei dibattiti molto vivaci e molto approfonditi. Nel corso dello spettacolo vengono reinterpretate canzoni in diverse lingue e del musical stesso esistono diverse versioni in lingua a seconda del paese in cui viene messo in scena. La finalità delle giornate di consapevolezza europea però non è solo quella di educare ed informare i cittadini dei vari stati ad una coscienza europea, ma sono propedeutiche ad una grande manifestazione in programma a Roma a marzo. Insieme ad alcuni altri colleghi, grandi intellettuali europei, abbiamo lanciato un appello che chiede un governo democratico per l'Europa e invita tutti a partecipare alla Marcia per l'Europa che si terrà il 25 marzo a Roma, che sarà un grande momento di mobilitazione popolare per dimostrare che in realtà, nonostante il ritorno del nazionalismo, la maggior parte dei cittadini europei capisce che nel mondo globale, di fronte agli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il Brasile, l'India, il più piccolo di questi è più grande di tutta l'Unione Europea, noi abbiamo una speranza di crescita, di futuro, di sicurezza soltanto come europei. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora un messaggio, dice questo ascoltatore o ascoltatrice: il diritto all'obiezione di coscienza non può essere un alibi per privare le donne del diritto dell'aborto. Come al solito è il legislatore che non ha correttamente costruito la legge e non ha previsto in un paese che ospita il Vaticano l'eccesso di medici obiettori. Adesso penso che non abbia nulla da obiettare però il nostro Dario Ricci nel aggiornarci sulla Juventus. Ah no, assolutamente, siamo al 53esimo, ancora 0-0 a Porto tra Porto e Juventus. Lo ricordo, Juventus che dal 27esimo del primo tempo è in superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione del terzino sinistro del Porto, Alex Telles. Juventus che ha avuto anche diverse occasioni per passare in vantaggio, la più clamorosa con il palo di Dybala allo scadere del primo tempo, ma Porto che qualche minuto fa si è fatto vivo dalle parti di Buffon con un pericoloso colpo di testa di Herrera. 54esimo di gioco, quindi Roberta ancora 0-0, mentre l'altra sfida della serata, il Siviglia, è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Ester di Claudio Ranieri. Avevamo 30 secondi per dire Bonucci, quindi in castigo in, Bonucci, in tribuna. Sì, senti, sì. Ma quindi c'è Maretta tra l'allenatore Allegri e i suoi calciatori? Come, va tutto bene così la Juventus e poi? Ma no, no, già quest'anno, sai, sono ambienti sempre effervescenti questi spogliatoi, diciamo così, no? Tutti vogliono giocare e quindi capita che si discuta. Questa volta l'hanno fatto in modo più veemente. È arrivata la sanzione, Bonucci è in piedi in tribuna a fianco di Marotta e Nedved, dello stato maggiore della Juventus. Grazie Dario Ricci, questo per ora è il risultato, quindi 0-0, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.